Oggi abbiamo la lettura del libro dei Proverbi, capitolo 7. E il saggio ci dice, ancora i verbi, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai. Il mio insegnamento sia come la pupilla, così prezioso, come la pupilla dei tuoi occhi. I miei precetti, legali alle tue dita. Da lì deriva l'uso, se avete notato qualche volta negli ebrei osservanti, sia di mettersi una scatoletta sulla fronte legata con un laccio con dentro alcuni versetti della Bibbia, sia di legarseli alla mano delle strisce di cuoio. Avete mai osservato? Ci sono dentro alcuni versetti della Bibbia, la prendono alla lettera, no? Legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore e la sapienza, tu chiamala, tu sei mia sorella. E l'intelligenza di, tu sei mia amica. Perché tutto ciò? Perché ti diano sapienza e intelligenza. Ieri abbiamo sentito perché non sia come la formica, perché tu sia come la formica per la sua laboriosità e previdenza. Oggi, perché la sapienza e l'intelligenza ti proteggano dalla donna straniera, la sconosciuta che ha parole seducenti, la donna pubblica, la donna di strada. E qui descrive in maniera, è un quadrettino bello, no? Mentre ero alla finestra della mia casa, vedevo dei giovani inesperti e tra di loro uno con più iniziativa, un adolescente, che passava per la piazza ma stando dietro alle mura, dietro il muro delle case, svoltando l'angolo stretto per non farsi vedere, che andava nella casa di lei sul finire della giornata, all'apparire del buio. Voi invece non indirizzate le vostre strade verso la donna, la prostituta. Cari amici, qui si aprirebbe un grande discorso sulla sessualità. Intanto vi dico che la lussuria, cioè l'uso peccaminoso, sbagliato della sessualità, è un peccato graditissimo a Satana. In un esorcismo sentivo Satana che, falsando la voce della persona, diceva: io li prendo con il sesso. E quanti aborti! Io li prendo con il sesso. Ma cos'è sta sessualità disordinata che piace così tanto a Satana e che fa peccare? Guardate che il mondo è pieno di peccati contro l'uso retto della sessualità. Tutti i tradimenti delle famiglie partono da quello. Tutte le impurità della gioventù sono quello. Tutta la prostituzione che c'è in giro, femminile ma anche maschile, ma anche di trans sessuali, parte da quello. I femminicidi partono perché, dopo delle relazioni intraprese, uno dice: passa a un'altra relazione, allora non ci si adatta, allora si ammazza la persona. E gli stupri e la violenza sulle donne, e la violenza l'abbiamo sentita nei casi di guerra, nei casi di terrorismo, e la pornografia. Amici, chiediamo alla sapienza, all'intelligenza, che ci dia di vivere bene la sessualità secondo il nostro stato. Ma permettete che spenda una parola anche sulla bellezza della sessualità. Quante volte mi avete sentito incoraggiare gli sposi a a vivere di più la loro intimità, a non considerarla un male necessario, magari da evitare a lunghe scadenze, quando proprio è necessario. La sessualità, amici, l'ha inventata Dio, l'ha costruita Dio. Ma che esempio diamo ai nostri bambini? Ma fatevi vedere abbracciati papà e mamma, baciarvi. Quante volte io dico ai bambini: tuo papà e la tua mamma, tu li vedi se si baciano o no? Allora sono bravi, va? E se c'è presente il papà e la mamma, mi dicono, tante volte il bimbo si intromette tra di noi: la mamma è mia, la mamma è mia. Che il Signore benedica la sessualità coniugale, ricca. Dici, ma cosa dice Don Ambrogio dal pulpito? La sessualità coniugale ricca, abbondante. Sì, Signore. Ma Don, ma è sempre giusto, non è mai peccato? Ma io ti dico così, lasciala crescere come un bel cespuglio rigoglioso, poi parlane col tuo confessore. E se lui ti dirà che qualcosa va potato, pota. Ma tu puoi potare se hai un bel cespuglione. Se hai un filo d'erba, cosa vuoi potare? Cari cristiani, benediciamo Dio. E anche noi che non abbiamo marito o moglie, o anche voi che siete vedovi, o chi, anche noi abbiamo una sessualità. Se sei maschio, hai delle caratteristiche non solo fisiche, ma anche di intelligenza diversa dall'intelligenza della donna, di carattere, di abilità, di cose che preferisci. Non esiste una persona che non sia sessuata. Maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò, non perché era maschio e femmina anche Dio, ma perché Dio è relazione, è trinità, e la mascolinità e la femminilità vissute nella grazia di Dio sono immagine della trinità.